America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are looking at a new model that's based not just on aid and assistance but on trade and partnership. Barack Obama è in Africa, sta per concludere il suo viaggio africano, lo avete sentito durante una conferenza stampa che ha tenuto in Tanzania a Dar es Salaam con il presidente della Tanzania, Kikwete, una conferenza stampa che alla fine è stata forse la più importante di questo viaggio del presidente americano in Africa, non tanto per quel che è stato il messaggio di questo suo viaggio, quanto perché Obama ha affrontato delle importanti tematiche internazionali che si sono sviluppate proprio durante questo suo viaggio. Ma parliamo di questo viaggio africano, un viaggio ovviamente importante. Barack Obama ha cominciato la settimana scorsa in Senegal, poi è andato in Sudafrica. Ecco un viaggio africano di Obama che era dovuto da tempo, anzi forse da troppo tempo. Ci sono state infatti delle critiche perché si dice che sia stato alla fine un viaggio tardivo, soprattutto questo in Sudafrica, soltanto nel secondo mandato. Obama, tra l'altro, non è stato in Kenya, dove la situazione è difficile, e per questo Obama è stato un po' criticato, troppo poco, troppo tardi. Ma veniamo agli aspetti esterni di cui vi parliamo. La crisi egiziana con il presidente Morsi sotto assedio, le notizie nuove che abbiamo avuto in questi giorni sulle attività di spionaggio della National Security Agency degli Stati Uniti che riguardano gli alleati europei, insomma sembra che siano state inserite delle cimici in istituzioni europee, nelle ambasciate anche tra l'altro italiane. In mezzo a queste reazioni molto forti, soprattutto nel contesto europeo, c'è stato però poi un accordo che è stato raggiunto, che è stato trovato fra Barack Obama e il presidente russo Vladimir Putin su come trattare il caso Snowden, il latitante, a sua volta uno spione che ha rivelato i segreti americani al mondo. Egitto, pare che le dimostrazioni siano di gran lunga superiori a quelle che si sono viste durante le ribellioni contro Mubarak, quando il paese sposò in pieno la primavera araba, raccogliendo la staffetta dalla Tunisia. Ecco, la situazione è molto difficile. Sentiamo Obama. Gli è stato chiesto, ma insomma, presidente, lei ha appoggiato le dimostrazioni della gente per strada quando erano contro Mubarak. Non è forse il caso di appoggiare queste dimostrazioni che sono contro un presidente che si è rivelato un po' un fallimento? E questa è la risposta di Obama. We'd like to see the opposition and President Morsi engaged in a more constructive conversation. Avete sentito la risposta di Obama, preoccupato per la situazione in Egitto, continuiamo a monitorarla da vicino, dice, però sottolinea, lo facciamo senza essere per questo o per quello, perché il nostro interesse è che l'Egitto possa proseguire nella transizione democratica. Il presidente Morsi è stato eletto democraticamente attraverso delle elezioni, ma la democrazia si vede anche nel rapporto con l'opposizione e come vengono trattate le voci del dissenso. Ecco, questo è un punto molto chiaro in cui Barack Obama prende le distanze da Morsi. Morsi è, diciamolo, un personaggio difficile che ha dimostrato di non essere adatto a ricoprire il ruolo chiave, perché poi l'Egitto è il paese più importante del mondo arabo, il paese più importante anche per tutti quelli che sono gli equilibri tra israeliani, palestinesi, insomma è un paese davvero punto di riferimento per tutti quei paesi arabi che hanno cercato la strada della democrazia. E dunque per Obama la prima preoccupazione è che queste proteste rimangano pacifiche e dice lavoreremo con tutti i partiti egiziani. Però, e qui un altro punto chiave, la mia impressione è che se l'Egitto vuole proseguire sulla strada della democrazia deve abbandonare posizioni massimaliste. Reaction très ferme donc de François Hollande qui semble il presidente francese Hollande, direi che è stato uno di quelli che ha reagito in modo più duro alle notizie che abbiamo appreso di nuovo dal solito Guardian su rivelazioni di Snowden secondo cui gli Stati Uniti avevano 38 obiettivi sensibili nell'Unione Europea, avevano installato delle cimici nel contesto istituzionale a Bruxelles, ma anche in ambasciate, in molte ambasciate di paesi amici, tra cui l'ambasciata italiana a Washington. Abbiamo cercato di parlare con il nostro ambasciatore, ma si è chiuso giustamente in uno stretto riserbo. Nel mirino, vi dicevo, Germania, Francia, Grecia, proteste. E secondo me qui, da un punto di vista della reazione, ci si è spinti un po' troppo in là, perché Qualcuno, Catherine Ashton per esempio, ma lo stesso Hollande, hanno detto che se non vi sarà un chiarimento assoluto su quello che è successo, si potrebbe addirittura interrompere il negoziato per l'accordo di libero scambio transatlantico. Dunque, una crisi che sembra essere esplosa anche questa all'improvviso, dopo le rivelazioni sulla presa di possesso dei metadati sulle telefonate, non soltanto all'interno degli Stati Uniti, ma a livello internazionale. Ecco, vorrei chiarire, si tratta di due questioni separate. Da una parte le attività della National Security Agency, dall'altra questa attività che è più tipicamente di spionaggio. Sentiamo Obama. If I want to know what Chancellor Merkel is thinking, I will call Chancellor Merkel. Ecco, dal punto di vista generale Obama interviene subito dicendo, ma insomma, diciamocelo, lo spionaggio c'è sempre stato. E da una parte posso dire che i paesi europei sono tra i nostri più stretti alleati, ci scambiamo informazioni di intelligence in continuazione con l'obiettivo di garantire la sicurezza a tutti, e questi controlli li facciamo insieme e avvengono a livello di tabulati, non di contenuto, a meno che non ci sia una minaccia concreta da parte di sospetti terroristi. Comunque tutto è legale, tutto avviene in trasparenza e non ci sono, diciamo, attività di spionaggio. E la seconda considerazione che fa il presidente, devo dire, ha fatto bene perché è stato molto trasparente, insomma, prende la realtà per quello che è, perché dice: gli Stati Uniti, come ogni altro paese in Europa o in Asia, hanno un servizio di intelligence che svolge il suo lavoro normalmente. Il lavoro dell'intelligence è quello di cercare di carpire in tutti i modi possibili informazioni anche con le cimici. Insomma, questo lo si sa. E poi lui dice: non so esattamente che tipo di accuse ci vengono fatte, ma vi posso assicurare che mentre mi trovo qui c'è qualcuno che di sicuro raccoglie informazioni su cosa ho mangiato a colazione, su cosa ho cercato di dire privatamente al presidente della Tanzania. Insomma, quello che voglio dire però è che se ho bisogno di sapere qualcosa dal cancelliere Angela Merkel, da David Cameron, da François Hollande, alzo il telefono e li chiamo, perché le nostre relazioni ormai sono così strette che, insomma, non c'è bisogno di segreto, non c'è bisogno di carpire queste informazioni. Insomma, il presidente cerca di fare un distinguo, quelle che sono le attività dei servizi nel senso stretto del termine, che poi in teoria dovrebbero arrivare a lui, che però poi lui è già più informato di loro. E qui c'è la domanda chiave, la domanda su Putin. Secondo Reuters, lei e il presidente russo Putin avete chiesto a FBI e FSB di trovare insieme una soluzione al caso Snowden. Conferma. There have been high level discussions with the Russians about trying to find a solution to the problem. Conferma, dice il presidente, ci sono state discussioni ai vertici tra Stati Uniti e Russia per cercare una soluzione comune al problema. Non abbiamo un trattato di estradizione con la Russia, ma sembra che Snowden si sia recato a Mosca senza un passaporto valido, perciò speriamo che il governo russo agisca secondo le norme che regolano i viaggi internazionali. Dunque, Barack Obama e Putin non sappiamo ancora bene quale sarà la soluzione, ma si stanno avviando verso una soluzione. America 24. Come si ricompongono queste diverse tessere del mosaico? Insomma, secondo me c'è sempre un limite, lo ammette anche Obama, è vero, forse quel limite è stato varcato in questi giorni, non so come si possa sentire il nostro ambasciatore a Washington, ma non credo che gli abbia fatto piacere sapere che il suo alleato abbia cercato di piazzare cimici nel suo ufficio o in quelli dei suoi colleghi. Per questo reazioni molto forti, forse anche troppo forti in Europa. Perché? Perché, insomma, giusto reagire, ma invocare come ritorsione una interruzione dei negoziati per la creazione di un'area di libero scambio transatlantica, come abbiamo ascoltato da alcuni dei leader europei, secondo me equivale al passaggio dal legittimo risentimento al sensazionalismo della politica. Perché, come ha detto Obama, gli spioni, lo spionaggio c'è da che mondo è mondo. Per questo ci sono normali procedure d'ufficio che in gergo si chiamano sanitizing, cioè la periodica perquisizione, sterilizzazione dell'ambiente, cosa che immagino i nostri servizi facciano normalmente, neutralizzando così possibili intrusioni, amiche, nemiche. Insomma, Obama fa bene a distinguere fra attività di spionaggio sul traffico telefonico per individuare terroristi e quelle condotte per spiare su attività di una controparte. Il rischio senza questa distinzione, ecco, questo è un punto chiave, insomma, è quello di confondere. Si aiutano poi gli attivisti come Snowden o Assange, che cercano, come hanno fatto, hanno dimostrato di fare con successo, di alimentare conflitto e confusione fra partners. E a quel punto, secondo me, non è un caso che proprio ieri Putin e Obama abbiano trovato un accordo su come trattare il caso Snowden. Il messaggio è chiaro: i rapporti fra grandi potenze non possono diventare ostaggio dell'attivismo politico. mi sembra il caso di aggiungere, neppure quelli commerciali fra nazioni amiche come sono l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee, da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di spionaggio, di attività di intelligence. Continuiamo a parlare di spionaggio, attività di intelligence con la Russia di mezzo. Beh, insomma, mi sembra che il modo migliore di dedicare la canzone del giorno sia di prendere in prestito una canzone da un film di 007. Dunque, From Russia with Love. I'm running around. It's true. I fly to you. From Russia with love. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.